mio Carlo. Oh, Rodrigo, io ti son ben grato di venir di Carlo alla prigion. Mio Carlo, bene tu sai, m'abbandono il vigore di Isabella all'amor, mi tortura e m'uccide. No, più valor non ho pei viventi, ma tu puoi salvarli ancor, o pressi non ho ne fia ne più. Ah, noto appienti sia l'affetto mio, uscir tu dei da questo orrendo aver. Felice ancor io son se abbracciarti possio. Io ti salvai, vedi, convien qui dirci, convien qui dirci addio. Oh mio caro,